Non vorrei rubare il mestiere ai commentatori politici della nostra redazione, soprattutto dopo 40 minuti di intervista ad Orlando, ma spero che abbiate notato anche voi come attorno alla prossima scadenza referendaria si stia creando un clima molto strano, almeno se si considera che si tratta, a quanto assicurano unanimi tutti, di una consultazione all'esito largamente scontato, essendo il 56% dei cittadini già ben deciso adesso a votare sì, come d'altronde è suggerito da tutti i grandi mezzi di informazione, dalla stragrande maggioranza dei partiti presenti in Parlamento, dalla totalità dei nuovi movimenti emergenti per quello che sono, per non dire di certi eminenti personaggi che, visto il ruolo istituzionale che coprono, farebbero meglio a tenere la bocca ben chiusa. Eppure di questa prova dall'esito scontatissimo si parla come se fossimo una volta di più all'ultima spiaggia, come se da questo voto dipendesse chissà che cosa, ma non so. Domenica scorsa, tanto per intenderci, il direttore del Corriere della Sera, che non è l'ultimo arrivato, si è disturbato a scrivere e a firmare, che non succede spesso, un fondo intitolato La vittoria non basta, in cui spiegava appunto che non a vincere deve mirare il buon referendario, ma a stravincere, perché per le istituzioni democratiche un'affermazione di stretta misura dei sì sarebbe altrettanto letale che una vittoria dei no, o forse addirittura peggio. Come se una percentuale del 56% fra i favorevoli da 4 settimane dal voto non configurasse già da solo una stravittoria di tutto rispetto, ma evidentemente il clima dell'ultima spiaggia deve essere creato in qualche modo. Quanto a Repubblica, sempre domenica ha pubblicato in una delle sue prestigiosissime pagine economiche uno stranissimo articolo in cui, confondendo un pochino le carte tra il 18 aprile del 93 e il 18 aprile del 48, e quello, se non ricordate, in cui abbiamo votato per i democristiani senza pensare per l'indomani a rovinare la gioventù, no? In cui, confondendo un po' questi due 18 aprile, riusciva a supporre che oggi come allora l'incertezza sull'esito spinga non poco a imboscare i capitali all'estero, o al massimo a tenerlo in Italia ma senza convertirlo in lire, che pare che adesso si possa fare, ma rappresenta sempre un grave documento per l'economia nazionale. Oddio, avranno ragione loro, non quelli che imboscano i capitali, avranno ragione i favorevoli al sì, figuriamoci, sono in maggioranza e la maggioranza in democrazia ha sempre ragione, soprattutto quando è sospinta dal vento del cambiamento. Certo però che per costituire una maggioranza così travolgente, così decisa a trasformare il paese, gli esponenti di questo fronte sono straordinariamente riluttanti a motivare la loro proposta nel merito. Ci assicurano che bisogna cambiare, che l'approvazione dei quesiti referendari segnerà un cambiamento, che è vero, senz'altro è vero, ma è un pochino ovvio, e poi anche irrilevante, perché quello che conta è il tipo di cambiamento a cui si va incontro, no? Ci garantiscono che i futuri parlamenti, dopo il sì, potranno esprimere dei governi stabili nella pienezza dei loro poteri, che anche questo, scusatemi, ma non vuol dire più di tanto, perché i governi deboli e incapaci sono una grave iattura, certo, ma questo non vuol dire che i governi forti e capacissimi siano una garanzia assoluta di sonni tranquilli per tutti. Io non vorrei fare della demagogia inutile, figuriamoci, ma talvolta è successo che sotto dei governi un po' troppo forti e troppo capaci i sonni dei cittadini siano stati turbati dal brusco bussare alla porta dei carabinieri in piena notte, non so, tanto per intenderci. Qualcuno, non lo dubito, nel merito avrà cercato di entrarci, ma nella cania generale non si è fatto sentire affatto. In compenso si sono fatti sentire come quelli che ricorrono all'antica tecnica dell'esorcismo. Non mi spiego, quelli che spiegano tutti seri che comunque per il no vota Craxi, e questo cambia, taglia la testa al toro, perché, virgolette, per la sua stessa presenza attiva nel fronte proporzionalista, Craxi restituisce alla battaglia per il no il suo autentico significato. Comunque lo si agghindi, si tratta puramente di una battaglia per la conservazione di quanto è più possibile del vecchio regime politico e della logica dei vecchi partiti. Questo è sempre il Corriere della Sera, venerdì 19, a firma di tale Paolo Franchi, che evidentemente è convinto che le dirigenze della DC, del PSI, dell'OPSD, del PL, del PRI, del PDS, tutte schierate per il sì, con il vecchio regime e con la logica dei vecchi partiti non abbiano nulla a che fare. O quelli come il senatore Boato, per cui Per cui, Corriere della Sera, sabato 20, i no sono, virgolette, frutto di vetero estremisti di sinistra, chiuse le virgolette, tra i quali vetero estremisti il vecchio trasformista non annovera evidentemente Craxi, anche se lo imporrebbe la proprietà transitiva, no? In compenso lui annovera i suoi colleghi verdi che la pensano diversamente da lui e che rappresentano solo, virgolette, una vecchia componente di estrema sinistra, virgolette, che pecca oltretutto di scarsa coerenza. Lui, che è stato, se non mi sbaglio, esponente del dissenso cattolico, leader studentesco, dirigente di lotta continua, deputato radicale, candidato socialista trombato, senatore della Sinistra Unita allargata ai socialdemocratici e senatore verde, problemi di coerenza non ne ha di certo, ma questo col sì e con il no ha poco a che fare, no? Vedete? Il fatto che anch'io, che personalmente credo che il sistema proporzionale sia una conquista democratica da cui, se proprio si vuole votare, sarebbe stolto allontanarsi, e per di più volontariamente, non posso non accorgermi che lo schieramento del no sta venendo su un po' come un'armata Brancaleone non delle più entusiasmanti. Ma ahimè, il punto non è questo. Il punto è che anche nello schieramento dei sì c'è un mucchio di gente con cui io non vorrei farmi vedere insieme nemmeno da morto, e non mi riferisco soltanto al senatore Boato, figuriamoci, lui è l'ultimo della lista, c'è il presidente Amato, c'è l'onorevole Bossi, c'è il senatore Agnelli, il dottor Abete, non dimenticate il dottor Abete, vabbè, un siista, si dirà un siista, sì, beh, un siista democratico, un riformista serio, un ammiratore del tenero Occhetto, potrà sempre ribattere che nella lotta politica può capitare di trovarsi a fianco degli strani compagni di giochi, e sì, lo sappiamo tutti, ma questo vale anche per noi, eh? Il fatto è, in realtà, che i nostri politici non vogliono entrare nel merito, e non vogliono entrare nel merito perché non ne sono capaci. Loro sono avvezzi da sempre a suscitare dei fantasmi da esorcizzare, a raccogliere le masse non attorno ai meriti propri, ma contro il pericolo rappresentato dai demeriti altrui. Orbati, con chissà quanto dolore da quel servizievole spettro che una volta s'aggirava per l'Europa, una volta capito che è difficile spaventare la gente con la prospettiva dei cosacchi che abbevano i cavalli in piazza San Pietro, e non hanno saputo trovare di meglio come schema di contrasto ideologico-culturale, come alternativa su cui giocare il nostro futuro e su cui salvare il loro, che è l'antitesi tra il vecchio e il nuovo. E come babau con cui spaventarci, il fantasma della partitocrazia, contro il quale fantasma i partitocrati, con sprezzo del ridicolo, stanno cercando febbrilmente di montare un nuovo 18 aprile che a questo punto si configura come la vera soluzione politica di Tangentopoli. E buon pro gli faccia, ma quando avranno vinto anche questa battaglia, che cosa d'altro si inventeranno sti deficienti?